fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui di nuovo, benvenuti su Risto Radio Convento, la nostra web radio qui al convento di Ronato del Garda. Stiamo passando un altro bel sabato sera, sabato dinner and dance, e come ci piace dire sono spesso tanti i motivi di festa all'interno del nostro locale, soprattutto sono tanti i motivi che ci portano loro per festeggiare, che sono i protagonisti veri delle nostre serate, quindi i nostri amici, i nostri festeggiati. E tra i vari motivi che ci piace di più ricordare ci sono le lauree. Certo! Ci sono anche queste, perché diciamo dottore! Che la nostra dottoressa, solitamente siamo, come dire, anche spesso ricordati per matrimoni, celibati, nubilati, ma ci sono anche delle belle feste di laurea, come in questo caso, come la nostra amica che andiamo a presentare e a conoscere un po' meglio. Come ti chiami? Ciao, sono Chiara. Chiara, che laureata tanto... in farmacia. Neolaureata in farmacia, sì, perfetto. Sì, da dove vieni? Desenzano, quindi qua vicino. Laureata a Parma. Laureata a Parma nel senso per scelta o per necessità, cioè hai proprio scelto Parma come facoltà o essendo non lontanissima? Nel senso che a Brescia non c'era, a Padova non sono stata presa, quindi Parma era. Ok, era una tra le variabili. Parma era. Però se avessi potuto scegliere veramente senza la possibilità di essere preso, che saresti andata dove? Comunque a Parma. Ma comunque a Parma, vedi? Quindi per alla fine il destino ti ha riportato lì. Ancora, adesso la faranno a Brescia, ma io ormai ho finito. Sì, no, beh, certo, certo. E allora, laureata quando intanto? Il 22 marzo. 22 marzo? Ah. Ok, 22 marzo, quindi da una settimana. Una settimana, esatto. Oggi una è sabato, venerdì scorso. Ho paura a chiedertelo, ma ci provo con una tesi su... gli inibitori... Che cazzo ridono? No, perché... Il fattore 11 c'entra. Brava! Gli inibitori del fattore 11 sono dei nuovi anticoagulanti che non danno rischio di emorragia. Ok, infatti potrei stare qua a parlarti del rischio. Esatto, perché è proprio quello, proprio di quello avevo paura, che fosse una cosa così specialistica e così particolare, esatto, che non avrei mai capito. Infatti non avrei mai capito, però già un po' mi hai fatto capire l'idea. La tesi, beh, immagino sia solo, insomma, si esponga e basta, sì. Sì, cioè una tesi non sperimentale, quindi ho fatto la mia esposizione, che comunque niente pericolo, è durata okay. Un bel 5 mesi e basta. Ma è perché allora, io quando l'ho fatta io non era pubblica, cioè l'esposizione era privata e poi la consegna, diciamo così, della laurea vera e propria era pubblica. Come funziona invece la farmacia? Adesso ho fatto l'esposizione insieme a tutti quelli che volevano ascoltarmi, chi non voleva ascoltarmi usciva fuori. Però ma è stato preso a cinghiate, questo sappiatelo. Chi non l'ha voluto ascoltare è stato severamente punito, come esatto, è giusto che sono fosse. Sono stati tutti a ascoltarmi e dopo c'è stata la proclamazione, quindi tutti sono stati a ascoltarmi. Ah, ok. Non era privata. Quindi non era privata, ok, perfetto. E vabbè, ne abbiamo parlato all'inizio serata, però mi fa piacere che lo ricordi anche qui. Adesso il tuo desiderio immagino sia proseguire in questa strada, già so che lo fai. Sì, sì, sì, assolutamente sì. Mi realizzo tantissimo, mi piace tantissimo stare in farmacia e lavorare così come sto facendo. Ok, e già qui in zona mi dicevi, sempre a Desenzano? Sì, Desenzano, sì. Ma avresti voglia di aprire qualcosa di tuo o ti va comunque bene così? Non ho i soldi per farlo. Beh, infatti, guarda, stiamo sempre parlando per mondo ideale. Per i soldi che ci vogliono va bene così, però. Ok, ok. Beh, però insomma, se potessi avere un desiderio senza pensare ai soldi, ti piacerebbe cioè sì, aprire qualcosa di tuo, sì. O ti fa paura gestire tutto? Adesso come adesso mi fa un po' paura. Mi fa un po' paura per le responsabilità che tu hai nell'aprire una farmacia. Ok, ok. E fammi capire una cosa, cosa ti ha fatto? Allora, no, faccio una domanda prima. È spesso normale per una ragazza soprattutto innamorarsi della medicina, innamorarsi di quel ramo. Cosa ti ha fatto innamorare invece della farmacia in particolare? Non so risponderti così di getto, ma io ricordo benissimo quando da piccolina andavo in farmacia e vedevo... Scusa, chiudi, scusa, dopo. Vai, ci dicevi, andavi in farmacia? Andavo in farmacia e vedevo queste signore o signori in farmacia e io avevo detto sempre a mia mamma, mamma, io voglio essere come loro da grande. Ah sì? Sì. E cosa ti affascinava dei farmacisti? Non lo so, il fatto che comunque trovavi una persona che ti dava fiducia in quell'ambiente piccolo che era al di fuori del contesto medico e a me è sempre affascinato tantissimo. Vedi che comunque, cioè, diciamo spesso che i bambini sognano troppo in grande o comunque fanno male a sognare certe cose, invece nel tuo caso non è stato un sogno banale, no, ma è comunque una cosa che ti sei portata dietro. Sì, c'è stato un momento in cui volevo fare la veterinaria e però siamo sempre lì. Ho chiesto a mia madre, mamma, quando muoiono le maestre? Perché ero rimasta male perché non volevo deluderle. Ah, ok. Perché gli avevo detto voglio fare la veterinaria, ma io in realtà dopo ho cambiato idea e quindi volevo che morissero perché... Però, che bello, bella questa storia, tenera. No, perché non volevo che rimanessero deluse. Ah, certo. Non volevo più fare la veterinaria. Eh sì, e quindi pensavi che ci sarebbero rimaste male. Esatto. Faccio una domanda magari stupida, però proprio per capire meglio il mondo non essendoci dentro. E il discorso del camice, chiaro che il medico è obbligato a tenerlo. Anche il farmacista, per Dio. Per lo stesso motivo? Cioè nel senso... Il farmacista... No, so che lo avete. No, il farmacista per legge è obbligato, se è iscritto all'albo, deve indossare il camice bianco con tanto di distintivo e il nome del farmacista. Come fosse a tutti gli effetti un medico? Assolutamente sì. Ok, quindi vedi che si imparano anche cose nuove. E, volevo farti raccontare anche questo, l'abbiamo... Sì, questo è un dipinto... Questo, diciamo, è a metà tra un dipinto e una scultura. L'abbiamo già vista parecchie volte nel corso della serata perché l'abbiamo ammirata in tanti. No, dicevo, in modo anche... come dire, ipotizzando che all'ascolto ci fossero dei bambini e quindi capirai il perché di questa richiesta, ci siamo parlati inizio serata e mi hai dato una bellissima risposta quando ti ho chiesto qual è la richiesta più strana che ti hanno fatto e mi piacerebbe che ce la ricordassi. Sì, no, la richiesta più strana per ore è quando mi hanno chiesto i copertoni. Ecco, dei copertoni. Dei copertoni che io non capivo assolutamente di cosa si stessero riferendo, perché ho detto, boh, i copertoni, ho detto, non lo sì, so. Sì, pensavi fossero andati dal meccanico per sbaglio, sì, esatto. Sì, non so, non capisco, non conosco, non lo so, non so cosa tu mi stia chiedendo e invece dopo ho capito che volessero dei preservativi. Ecco. Preservativi puri e semplici, anche perché sono nell'entrata, appena entri in farmacia sono lì davanti, tutti i tipi di preservativi che tu puoi trovare sono lì. Però c'è sempre un po' quel senso di vergogna, insomma, un po' di timidezza. Lì si vede evidentemente che non li avessero visti, perché bastava che tu certo. Fine basta. Ok. Quindi non so se era una mania di protagonismo o che cosa, però i copertoni in cui io... I copertoni non è un buon modo, per chiamarli. Tra l'altro non l'abbiamo ancora detto, 101 la tua 101, votazione, sì. 101, quindi complimenti. Non sei sola, immagino, perché qui ci sono una parziale, immagino, la rappresentanza di questa festa. Chi ti accompagna questa sera? Tutti amici? Sì, tutti amici. Qua ci sono Nicole, Francesca e Stefi. Ok, beh, e poi altri, ma qualche collega, insomma, compagni di corso, qualcosa? Sì, o proprio... ci sono, c'è la mia amica di una vita che è Elisa, che ha studiato con me, è venuta con me a Parma, ha fatto farmacia con me. Cavolo, e Davide. È proprio amiche per la pelle. Certo, io e Elisa sì, da sempre per sempre. Cavolo. E poi c'è Davide, che anche lui ha fatto farmacia, però lui è di Goito e lavora già. No, bello, bene, ci fa piacere. Vuoi cogliere l'occasione per dire qualcosa? Per salutare qualcuno? Voglio bene tantissimo a tutti i miei amici che sono qua per me. Bello, bene, mi fa piacere. Allora, ok, grazie mille per questa tua festa. Grazie mille per averla passata qui con noi. E niente, in bocca al lupo per la tua carriera. Senti, grazie. Grazie mille a Chiara. Ciao anche alle sue amiche, ciao.